La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Appassionati di sport negli Stati Uniti diventano matti per una sigla che è un acronimo GOAT, G-O-A-T, Greatest of All Time, il migliore di tutti i tempi, e si perdono in quei confronti affascinati ma assolutamente fini a se stessi tra i campioni di un determinato sport a cavallo delle epoche. Succede anche in Italia, ore di discussioni televisive, però gli americani come sempre sono più esagerati degli altri, però insomma il quesito è: meglio Maradona o Pelé, meglio Federer o Borg, meglio Coppi o Gimondi, Pantani o Gimondi, e ovviamente non c'è nessuna soluzione perché è troppo complicato il discorso comparativo tra sportivi che hanno agito in epoche diverse. Comunque il confronto più caldo in questi ultimi tempi nelle TV e nei cuori degli sportivi americani appartiene al mondo del basket. È un dibattito che dura da un paio d'anni, da quando la stella dell'NBA LeBron James si è autodefinito il più grande di tutti i tempi. È una dichiarazione che ha fatto sobbalzare insomma la gente dalle poltrone, non perché LeBron James non sia forte, ma per il fatto che il secondo protagonista del confronto è più di un grande atleta. Per raccontarlo non bisogna solo parlare di canestri fatti, di stoppate inflitte agli avversari, di milioni di dollari accumulati in ingaggi o i soldi guadagnati con le sponsorizzazioni che in un certo senso ha inventato lui nel mondo dell'NBA, che è come sapete il massimo campionato del mondo di basket. Insomma, per raccontare il nostro protagonista di oggi bisogna partire da un fatto tanto eccessivo quanto assodato e condiviso: lui non giocava solo a basket, lui sapeva volare. Se dici che sono il migliore, lo accetto. È la tua opinione e la accetto. Ma se mi chiedi di dire di essere il migliore di sempre, non lo direi mai, perché non ho mai giocato contro tutti quelli che hanno rappresentato la Lega prima di Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan, Brooklyn, New York, con radici che affondano nello stato della Carolina del Nord, nell'antico stato. Comunque lui ha segnato un prima e un dopo, come succede ai grandi eroi dello sport. È un atleta che ha usato una competitività patologica che è tipica di tutti i numeri uno nello sport, nel suo caso era una vera e propria malattia. Lui ha usato questa sua attitudine per radere al suolo avversari, intere squadre che si mettevano di mezzo, che si frapponevano tra lui e la grandezza. Prima ho detto che sapeva volare, e dovete sapere che ci sono esperti di cinetica che hanno eseguito studi su una sua famosa schiacciata per capire come potesse staccarsi da terra e rimanere sospeso per un tempo così lungo. Sembrava in volo, il difensore scendeva e lui rimaneva su. Questa schiacciata è stata definita Skywalk, la camminata nel cielo. Michael Jeffrey Jordan nasce a New York il 17 febbraio del 63. La sua storia familiare, l'ho detto prima, parte dalla Carolina del Nord, nella zona paludosa di Cape Fear. Il capostipite era il bisnonno Dawson. E ci immergiamo in questa epopea familiare che è fatta di povertà, di morte, di discriminazione razziale. La figura del bisnonno è fondamentale nella famiglia. È un uomo, come ricorderà lui stesso Michael, forte come un toro che non indietreggiava di fronte a niente e a nessuno. La madre di MJ, di Michael Jordan, Delores, è un'impiegata di banca, il padre è un meccanico in una centrale elettrica, in famiglia ci sono 5 figli. Jordan cresce a Wilmington, nella Carolina del Nord, quartiere a maggioranza nera, il nucleo familiare è tornato lì dopo un breve periodo newyorkese. Lui è un bambino pestifero, con un'infanzia che ha una serie ininterrotta di guai nei quali si caccia, e in più c'è un altro aspetto che ricorrerà, cioè lui non è il favorito del padre, il padre gli preferisce il fratello maggiore Larry e non lo nasconde. Larry è bravo a scuola, ha un carattere più pacato, peraltro insomma la figura del padre non è certo priva di ombre, anche tremende ombre, da una recente biografia emergono addirittura accuse di molestie sessuali da parte della figlia verso Michael. Poi il padre James ha un atteggiamento durissimo, lo definisce buono a nulla in pubblico, scrive così Lazenby Roland nel libro Michael Jordan, la vita. Le parole spietate del padre avevano attivato nel profondo di Michael un'elica vagante del suo DNA, provocando una mutazione della sua natura competitiva, dura come il titanio. Le parole davano voce al disprezzo che trapelava quasi ogni giorno dalle maniere e dagli atteggiamenti della famiglia Jordan, durante l'età più tenera di Michael. Anni dopo, ricorda sua sorella Delores, all'inizio della sua carriera nella NBA, mi ha confessato come a motivarlo davvero fosse stato il modo in cui lo trattava papà, che lo definiva davanti a tutti un buono a nulla. Ogni traguardo che raggiungeva era il suo urlo di battaglia per aver sconfitto l'opinione negativa che nostro padre aveva di lui. Insomma, il padre di Michael ricorda molti di questi genitori possessivi, e di alcuni abbiamo parlato, al Falco e il Gabbiano, per esempio il padre di Michael Jackson, solo che James Jordan per i figli non vuole una carriera nella musica, la vuole nello sport, in particolare lui è un appassionato di baseball, insomma mette il guantone e la palla nelle mani dei maschi di casa quando sono piccolissimi. Michael si dimostra talentuoso, fino a 12 anni sembra un predestinato, uno che farà carriera nel baseball, poi con l'adolescenza perde il suo tocco magico. Lo sport però comunque è l'attività nella quale spende maggiori energie piuttosto che studiare, lui preferisce passare delle ore per esempio tirando un canestro che il padre ha costruito sul retro di casa. Quanti film, quanti telefilm abbiamo visto con queste casette anche spoglie, ma con il canestro magari sulla porta del garage. Bene, lui non è certo uno studente di successo, però in America, lo sapete, l'attività sportiva a scuola può anche permetterti di andare avanti con gli studi, e lui al liceo comincia a mostrare questo talento per la pallacanestro, però è basso, è alto 1,75 m. Solo al quarto anno la sua altezza gli consente di entrare nella squadra della Laney High School, quando ha 17-18 anni, insomma comincia a raggiungere 1,90 m, e negli anni successivi arriverà a sfiorare i 2 metri. In quella squadra liceale lui diventa il leader e indossa per la prima volta la maglia con il numero 23, e peraltro insomma questo spiega anche perché ci sono tanti calciatori in Italia che fanno a gara per avere la maglia numero 23, scelta che in realtà spiega bene il suo complesso di inferiorità nei confronti del fratello maggiore Larry. Alle scuole, quando giocavo con mio fratello, il mio numero preferito era il 45, ma eravamo nella stessa squadra e lui era più grande. Ebbe l'opportunità di indossare il 45 e allora pensai, il 23 è quasi la metà di 45, e quindi lo scelsi. A fine liceo ormai è tenuto d'occhio dai media specializzati, lui è già la vera promessa del basket in quel periodo, e sceglie l'Università del North Carolina per proseguire gli studi. Lì lo sta aspettando un allenatore molto carismatico, si chiama Dean Smith, e insieme peraltro a 2 compagni di squadra che finiranno anche loro nell'Olimpo dell'NBA, James Worthy e Sam Perkins. Non è ancora Air Jordan, non è ancora un numero uno, però il suo contributo porta la squadra a vincere il titolo NCAA, che è il campionato universitario molto importante negli Stati Uniti. Questo accade nel 1982. Goes back to Michael Jordan, jumper from out on the left, good! Let's go! He'll win the national come molti campioni in erba, diciamo, avevano fatto prima di lui, Michael Jordan lascia l'università con un anno d'anticipo, fa il grande salto verso l'NBA e si inserisce nella rosa di giocatori disponibili ogni anno per essere selezionati, il cosiddetto draft, che è un sistema, diciamo, di basket mercato molto diverso rispetto ai nostri. C'è una lista di giocatori che possono essere scelti in ordine, è la terza scelta assoluta del draft del 1984. Lo compra una squadra che vive un momento pessimo. L'ultima stagione ha vinto 27 volte ed è stata sconfitta 60 volte. Stadio vecchio, nella parte più malfamata di Chicago, sono i Bulls. Jordan firma un contratto per 7 anni per 6 milioni di dollari, e allora era uno dei contratti più alti della storia dell'NBA. La mia unica aspettativa è di entrare in squadra e di cercare di dare il mio contributo. Non cercherò di fare cose fuori dall'ordinario. Beh, in realtà questa dichiarazione lui la smentirà rapidamente, perché al contrario è l'inizio di un periodo che è fuori dall'ordinario, non solo per la squadra ma per la storia dell'NBA e della pallacanestro. Partita d'esordio con i Washington Bullets, 15 punti, nel match successivo Milwaukee i punti sono già 37, e da lì in poi non si ferma più. Lo schema della squadra diventerà: palla a Jordan, datemi il pallone, poi correte ad abbracciarmi. Insomma, ogni partita ci pensa lui. Proprio in quel periodo la stella nascente di Michael Jordan incontra un marchio sportivo e insieme faranno la storia delle sponsorizzazioni. È un'azienda di scarpe dell'Oregon, un fatturato annuo di 25 milioni di dollari, è tanto, ma non stiamo parlando di cose di vertice. Vogliono espandersi, si chiamano Nike, Nike dal greco, o Nike come dicono gli americani. Sonny Vaccar, un agente dell'agenzia, è un creativo, ha trovato un modo per imporre il suo marchio nel basket. Mike è solo una speranza per il futuro. Questo Sonny Vaccar convince la Nike a investire su di lui. Nasce la linea di scarpe Air Jordan. Michael firma un contratto da 2 milioni in 5 anni e ottiene anche, qui questa va segnata, una percentuale su ogni scarpa venduta, e non era mai successo prima. Intanto il nostro protagonista sta crescendo nel gioco, segna sempre di più, le giocate spettacolari aumentano, la popolarità sale, lo stadio dei Bulls è di nuovo frequentatissimo, la gente lo vuole nella rappresentativa All Stars dell'NBA, la nazionale, se così possiamo dire. Con Jordan Chicago arriva già al primo anno ai playoff, che è la fase finale del campionato, non va oltre il primo turno, però lui gioca come non si è mai visto prima. In realtà però ha un atteggiamento che molti giocatori non amano, per cui in campo è aggressivo, vive ogni confronto con l'avversario di turno come fosse una sfida per la vita, e poi ha la caratteristica di essere il re del trash talk. Trash, avete capito cosa vuol dire? Talk, parlare. Quindi è uno che in campo provoca parole, gesti, prende in giro i rivali, li dileggia, li insulta, e poi ha questo tic che diventerà una specie di marchio di fabbrica: quando finalizza un'azione tira fuori vistosamente la lingua, ed è stato imitato anche da giocatori di calcio italiani. Ecco il ricordo di un grande campione dell'NBA, Magic Johnson. And I never talked trash but one time in my entire life with Jordan. La prima volta che ho fatto trash talk con Jordan, eravamo nel Dream Team. Il coach ci divideva in squadra est contro squadra ovest. Eravamo in due squadre diverse e finivamo sempre pari. Il quarto giorno, noi partiamo forte con un 12-2. E ho pensato, lo voglio fare incazzare sul serio. Gli ho bussato sulla spalla e gli ho detto: «Hey man, se non ti trasformi in Air Jordan, oggi vi spazziamo via dal campo». I suoi occhi sono diventati grandi così. La sua lingua è uscita fuori dalla bocca più del solito. Lui esce dal gruppo, mette un tiro da tre e mi guarda, con la lingua fuori. Poi di nuovo, un'altra tripla. E poi il tiro più bello che abbia mai visto. Arriva dal lato destro e... decolla. David Robinson decolla con lui e Mike. Ok, mi siederò qui in aria. Robinson torna giù e lui fa un 3,60 muovendo la lingua e schiaccia. Un 3,60 in una partita d'allenamento. And dunked it in a practice game. Il secondo anno ai Chicago Bulls inizia male, un infortunio, si frattura un piede, la squadra rimane senza di lui, inanella una sconfitta dietro l'altra, poi rientra a 18 partite dalla fine della stagione regolare e riesce a trascinare i Bulls alla conquista dei playoff. Poi però incontrano nella loro strada la parte, diciamo, nobile dell'NBA, i Boston Celtics di Larry Bird. I Celtics vincono. Bird però, dopo aver visto Air Jordan in campo, pronuncia una famosa frase, dice: penso sia Dio travestito da Michael Jordan. Il terzo anno a Chicago è quello della sua consacrazione, vince la classifica marcatori, è indicato tra i migliori difensori, vince le gare di schiacciate che per gli appassionati sono momenti imperdibili. La dirigenza dei Bulls però non è convinta che con Jordan si possa arrivare a vincere il campionato, perché lui è troppo individualista, non valorizza i compagni di squadra, è un accentratore, è soltanto che è incedibile, perché con lui il fatturato della squadra si è decuplicato, il merchandising è diventato il più ricco dell'NBA, la sua linea di scarpe della Nike nell'88 incassa 120 milioni di dollari, e ricordiamoci che lui aveva una percentuale su questi 120 milioni, quindi una bella fetta di questi soldi entra nelle sue tasche. Insomma, lui è la proverbiale gallina dalle uova d'oro. Ma la svolta per la storia della squadra, ma anche per la storia di Michael, è la nomina a allenatore di Phil Jackson, che fino a quel momento era stato il vice di Doug Collins. Il suo rapporto con Mike va al di là del rapporto professionale, è uno dei pochi dei quali Michael si fida veramente, e così piano piano Jackson convince Jordan a modificare quell'attitudine così individualista, comincia a farlo giocare con i compagni di squadra, e i risultati si vedono al primo anno con Jackson in panchina. I Chicago Bulls arrivano ai playoff, perdono contro Detroit nelle finali di conference, e poi inizia il dominio 91, 92, 93, tre titoli NBA di fila nella bacheca dei Chicago Bulls, e Jordan in quella storica tripletta è il miglior giocatore del campionato. Insomma, una cavalcata esaltante, fatta di record, di denaro e anche di rivalità aperte con Charles Barkley, con Clyde Drexler, con Isaiah Thomas, i grandi di quel periodo. Però c'è anche il lato oscuro di Jordan, la sua competitività patologica si trasforma rapidamente in passione per le scommesse e quindi passione per il gioco d'azzardo. Scommette su tutto, contro i suoi avversari a golf, ai tavoli del casinò, in posti poco raccomandabili, gioca a poker, perde tanto, si racconta di $1 milione persi per una sola partita di golf. Insomma, un vizio che lo porterà verso la più grande tragedia della sua vita nell'estate del 1993. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Michael Geoffrey Jordan, il più famoso giocatore di basket della storia, è il nostro protagonista di oggi e stiamo raccontando le sue vicende sportive, il suo talento stellare che l'ha portato dalla North Carolina fino ai palazzetti di basket di tutto il mondo. Ma non è solo una storia di mito, di vittorie, ci sono anche lati oscuri di quest'uomo, c'è una sua competitività patologica, c'è un atteggiamento aggressivo verso gli avversari, verso i compagni di squadra, c'è qualcosa che lo fa andare oltre la normale vis pugnandi, la cattiveria sportiva, quell'anima che è un'arma necessaria per diventare campione nello sport, ma non deve sconfinare nella follia, nella patologia. E siamo nel 1993, i Chicago Bulls hanno vinto il terzo titolo NBA consecutivo, trascinati da lui, da Air Jordan. Lui ormai è la stella più brillante del basket mondiale, ha 30 anni, è ricchissimo, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, il suo marchio è quasi più potente di quello della stessa NBA, ma la sua voglia di competere si mostra per quello che è, una malattia. Gli amici dicono che scommetterebbe anche su chi beve più velocemente un bicchiere d'acqua, ha bisogno di confronti diretti in campo e fuori, forse più vince lì più ha bisogno di misurarsi, tutta una sfida. Ecco un aneddoto dalle parole dell'ex giocatore del Los Angeles Lakers Byron Scott. So we got Chicago Bulls coming in town. In città arrivarono i Chicago Bulls e sfortunatamente avevo un problema a una caviglia. Una cosa che facevo con Michael era non farlo mai incazzare. Cioè lui metteva un tiro e tu dicevi: bel tiro Mike, non potevi fare trash talk, sennò te ne metteva 60. E ti dovevi far ammazzare con gentilezza. Insomma, loro scendono dall'autobus, ci incrociamo e MJ dice: ehi, che succede? Ho sentito che stasera non giochi. E no, mi si è girata la caviglia. E lui: e chi mi marca? Io rispondo: Anthony Peeler. E lui: 50. Poi ho detto a Anthony Peeler: guarda che MJ tenterà di segnarti 50 punti in faccia, non farlo incazzare, rimani tranquillo. Fece 54 punti. Ma quell'estate del 1993 segnerà uno dei passaggi più drammatici della vita e della carriera di Jordan. Il padre, James, a cui lui è comunque attaccato in maniera viscerale, il padre scompare, per giorni non si hanno sue notizie, poi emerge una verità terribile. Questo è un passo di un articolo di un quotidiano italiano dell'epoca. Hanno bloccato la sua auto, una fiammante Lexus Toyota Coupé rossa da 60 milioni di lire, regalata dal figlio, lungo una strada di campagna nel North Carolina alle porte della città di Charlotte. Hanno trascinato via il padre, portandolo oltre i confini dello Stato, nella vicina South Carolina. Lo hanno tenuto nascosto per giorni, nessuno sa dove. Lo hanno portato sulla riva di una roggia, in mezzo ai campi di tabacco della contea di Marlboro, che hanno visto per decenni altri neri come lui, come i Jordan, vivere e morire da schiavi, e lo hanno ucciso con un colpo al cuore. È stato trovato gonfio d'acqua, a faccia in giù, semisommerso. They found Mary Bellows, cuffed to the bed, with a rag in her mouth and a bullet in her head. Oh, oh Mary Bellows. She'd grown up hungry, she'd grown up poor. She left her home in Arkansas. Oh, oh Mary Bellows. She wanted to see the deep blue sea. She traveled across Tennessee. Oh, oh Mary Bellows. She met a man along the way. He introduced himself as Richard Slade. Up on me, rebellious. Oh, Mary thought that she might die, and she saw the ocean for the first time. Open me, you bellow. E due teenager vengono arrestati subito, ma già nei primi giorni dopo l'assassinio la stampa insinua un sospetto, una correlazione tra la morte del padre e il vizio delle scommesse di MJ. E qualcuno parla addirittura di una vendetta mafiosa per un debito di gioco molto ingente non pagato, forse proprio da lui. Intanto la giustizia segue la pista del delitto comune, ma il segno di quelle accuse rimarrà. Michael prende una decisione che sorprende il mondo del basket. Ho perso la motivazione e la sensazione di dover provare qualcosa come giocatore di basket, quindi è venuto per me il momento di lasciare. Avevo bisogno di un cambiamento, mi sentivo come ingolfato dal successo che avevo raccolto. E lo shock non si ferma all'abbandono del campione, perché pochi giorni dopo arriva un'altra notizia bomba. Jordan ha deciso di provare una carriera nel baseball. E guarda caso, lo sport adorato dal padre. Inizia in una lega minore, i risultati sono modesti, insomma non può essere all'altezza, non può avvicinarsi neanche lontanamente a quello che ha fatto sul terreno di gioco, vicino al canestro. E i giornali e i fan cominciano a criticarlo apertamente, non si danno pace. Sport Illustrated gli fa un affronto che lui non perdonerà mai. Il giornale pubblica come copertina una foto nella quale Jordan manca malamente una palla imbattuta. Il titolo è Bag It Michael, che in italiano suonerebbe come piantala lì Michael. Jordan si offende molto, però in realtà i detrattori hanno ragione e lui probabilmente lo sa, lo ha capito. Infatti dopo un anno e mezzo appende, diciamo, il guantone al chiodo e torna a indossare le scarpe da basket. E il 19 marzo del 1995 lo speaker dello United Center di Chicago annuncia la formazione dei Chicago Bulls e si avvera il sogno di milioni di tifosi. Michael is back, Michael Jordan è tornato, ha una maglia diversa, indossa la numero 45, quella del fratello al college. Nelle prime partite gioca bene, segna una valanga di punti, ma sembra un uomo differente in quei primi match. È come se cercasse tutte le volte un confronto diretto con le stelle che naturalmente nel frattempo sono emerse. C'è il gigante Shaquille O'Neal, per esempio. I Bulls verranno eliminati dai playoff. Qualcuno comincia a dire quello che tutti stanno pensando senza avere il coraggio di esprimerlo. Nick Anderson, giocatore degli Orlando Magic, dà voce al sentimento comune e dichiara: il 23 era un Superman, il 45 è solo forte. È la benzina che serve a Jordan per ritrovare quella motivazione feroce, perché lui ha vissuto di motivazioni feroci. All'inizio della stagione 95-96 cambia numero, si torna al 23. Michael Jordan è pronto a diventare ancora più grande. Il Falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Michael is back. Michael Jordan è tornato a indossare la numero 23, che è un po' il suo vestito da Superman. Si ricomincia a volare, è di nuovo lui, Air Jordan. Ancora una volta il suo scopo non è solo vincere, ma dominare. Dalla stagione 95-96, per tre anni consecutivi, i Chicago Bulls sono una squadra imbattibile. Molti la ritengono la migliore formazione di basket di tutti i tempi, anche perché con Jordan ci sono due tipi eccezionali. Uno si chiama Scottie Pippen, con lui darà vita a una delle coppie più notevoli di sempre. E poi c'è un personaggio ancora più particolare, si chiama Dennis Rodman, è un pazzo, è quello con i capelli di tutti i colori, quello che ha avuto una burrascosa storia d'amore con Madonna. E queste tre stagioni sono da incorniciare e metterne la storia della pallacanestro: una tripletta, tre titoli NBA consecutivi come la volta precedente. La squadra deve viaggiare scortata per l'interesse il delirio che scatena nei fan e naturalmente una delle conseguenze è che le vendite delle Nike schizzano ancora una volta in alto, schiacciata dopo schiacciata direi. Entra definitivamente nel mito Air Jordan e si sa che da una vetta così alta non si può che scendere. E ci saranno altri due ritiri nella sua carriera. Il primo al termine del triplete dell'impresa storica con i Bulls alla fine della stagione 97-98 e annuncia che si dedicherà alla sua passione di sempre, il golf. Tre anni dopo torna ancora nella veste particolare di proprietario giocatore dei Washington Wizards. È un declino, ma nello stile di Michael, perché fa tempo a segnare altri record, come quello del giocatore più anziano, a 38 anni, ad aver segnato oltre 40 punti in una partita, e batterà il suo record nel 2003, cioè a 40 anni segnerà più di 40 punti in una partita. Alla fine di quella stagione viene però contestato dai suoi compagni di squadra per i suoi metodi di allenamento, arriva al terzo e ultimo ritiro che attualmente riteniamo quello definitivo, ma stando alle sue parole non si sa mai. One day you might look up and see me playing the game at 50. Potreste alzare lo sguardo e vedermi giocare a 50 anni. Non ridete. Mai dire mai. Perché i limiti, come le paure, sono spesso soltanto un'illusione. Thank you very much. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Fuori dal campo Michael Jordan sfrutta la ricchezza che ha raggiunto, la sfrutta per fare dell'altro dentro e fuori dal mondo del basket. Intanto crea un team motociclistico, mira alla MotoGP, poi gioca in tanti eventi benefici, soprattutto a golf. Nel 2004 riceve addirittura un'offerta per tornare in campo in Italia. La proposta arriva da Giorgio Armani, lo vorrebbe nell'Olimpia Milano, e Jordan però questa volta rifiuta. Nel 2006 diventerà general manager dei Charlotte Hornets e poi acquisirà la proprietà totale. Insomma, diciamo che i soldi non gli mancano. Un ultimo passaggio però che ha contribuito un po' all'appannamento della sua figura di sportivo, insomma, il dopo è molto difficile, scelte sbagliate, incidenti di percorso. Per esempio questo progetto fallisce e lui lì insomma dimostra i suoi limiti manageriali, anche se poi in realtà la gestione della sua immagine in termini di merchandising l'ha sempre portato in alto. Si ritiene che oggi lui abbia un patrimonio stimato di oltre $1 miliardo. Però lui riesce a dare un altro colpo al suo stesso mito nel discorso di ringraziamento del 2009 per l'ingresso nella Hall of Fame del basket, perché si mostra, diciamo, in tutta la sua normale e imperfetta umanità, contro tutte le tradizioni dei discorsi commoventi e politicamente corretti. Lui preferisce ricordare tutti quelli che in qualche modo l'hanno ostacolato, cioè anche in quel momento è un po' gnegne, vinco e vi faccio vedere perché. Parla del primo allenatore al liceo che gli preferì un compagno meno bravo, ai dirigenti dei Chicago Bulls con cui ha litigato, fino all'avversario che l'aveva sfidato ai tempi del suo primo ritiro. I hate to do it to him, but He's such a nice guy and odio fargli questo, è un così bravo ragazzo. La prima volta che ho incontrato Brian Russell ero a Chicago nel 1994. Giocavo a baseball e non avevo ancora in mente di tornare al basket. Brian mi disse: ma perché hai lasciato? Io avrei potuto difendere contro di te. Se ti vedessi in pantaloncini... Beh, quando decisi di tornare nel 95 e giocai contro Utah nel 96, incontrai sul campo Brian e gli dissi: ti ricordi quel discorso di 2 anni fa, quando dicesti che potevi difendere, che mi potevi annullare in campo? Ecco, oggi hai la tua possibilità. Credetemi, da quel giorno ha avuto le sue possibilità. Non so dire se c'è riuscito, ma io so che mi sono goduto ogni punto e che ogni volta che l'ho visto in pantaloncini... sono andato da lui. I relished on that point, and from this day forward, if I ever see him in shorts, I'm coming at him. E all'indomani di quel discorso, la Hall of Fame scrive così John Greensberg, giornalista di ESPN. Il suo discorso ha dimostrato ancora una volta che gli eroi esistono meglio nei miti e nelle storie, non su una pedana con un vestito lucido. Michael Jordan, la guardia dei Chicago Bulls, era invincibile. L'uomo Michael Jordan è vulnerabile, complicato e alla fine umano. Mi manca l'eroe Jordan. Non voglio davvero conoscere Jordan uomo. Al di là del fatto che io sono convinto che le grandi performance nella vita, in qualsiasi campo, si fanno più grazie ai detrattori che grazie a quelli che ti apprezzano, quindi in qualche modo io condivido questa linea di pensiero, insomma magari un po' revanchista, un po' rabbiosa, di Michael Jordan. Comunque il destino dei grandi sportivi e dei grandi in generale è quello: venire giudicati, magari mitizzati per le doti sportive, e poi molto spesso è inevitabile che questa grandezza del campione non si rispecchi poi nella grandezza dell'uomo. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite, scrivete al Falco il Gabbiano, scrivete a tutti noi, ai nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.